Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Il locomotore si è staccato dal resto del convoglio e alla velocità che teneva in quel momento, credo 300 all'ora, è andato a deragliare all'altezza di uno scambio che doveva essere posto in una certa posizione, invece così non era. Questo, care ascoltatrici, cari ascoltatori, è il procuratore di Lodi che ha parlato in questo passaggio in conferenza stampa oggi del treno deragliato Frecciarossa vicino Lodi, appunto alle porte di Milano, dove sono morti due macchinisti e sono rimaste ferite praticamente tutti i passeggeri. Sono 31 persone insieme anche al resto del personale ferroviario. Si parla, l'ipotesi appunto è quella del malfunzionamento di uno scambio, l'ipotesi è errore umano. Comunque insomma è in corso l'inchiesta, di cui parleremo per approfondire sia appunto l'inchiesta stessa, gli accertamenti degli inquirenti, sia per quanto riguarda la dinamica. Poi approfondiremo anche la pagina politica di oggi. È in corso il vertice di maggioranza che cerca di sciogliere uno dei nodi principali, che è quello della prescrizione, ma non sembra, dalle anticipazioni prima di questo vertice, che ci siano, diciamo, i toni e i requisiti per mediare, ma poi verificheremo. E poi anche ci collegheremo con gli Stati Uniti, perché Trump ha parlato in diretta TV dalla Casa Bianca dopo l'assoluzione di ieri sera, appena finito Effetto Notte apparsa la notizia, è stato assolto dall'impeachment dal Senato. Era voto piuttosto scontato, perché il Senato c'è maggioranza repubblicana, che è il partito di Trump, e si è tolto molti sassi dalle scarpe tuonando a destra e a sinistra. Quindi avremo altri dettagli poi collegandoci direttamente con gli Stati Uniti, e ci collegheremo anche con Sanremo. Un po' di leggerezza ci vuole sempre, visto che il grande evento mediatico dell'anno. Vogliamo sentire anche magari qualche nota in questo momento? Si sente già qualcosa? Ah, è la serata delle cover, si sta per cantare Madonna, Massimo di Vasco Rossi. Poi ci ritorneremo, ma intanto vi ricordo, per la vostra interazione qui con Effetto Notte, pagina Facebook di Effetto Notte per i vostri commenti, le vostre riflessioni, così le potete inviare invece via SMS o WhatsApp al 349 238 6666, scusate un po' di raffreddore. E poi c'è il Twitter durante il giorno, Roby con la Y, Linetta Bassa Giordano, e il Twitter di Effetto Notte durante la diretta. Partiamo, allacciate le cinture. Incidente ferroviario, deraglia un Frecciarossa a Lodi, due morti e 31 feriti. Si ipotizza che la causa sia uno scambio malfunzionante dovuto a errore umano. Coronavirus, sono 565 le vittime nel mondo. Accertamenti in corso su un possibile caso italiano in corso alla Cecchignola. I nodi del governo, in corso il vertice di maggioranza centrato soprattutto sulla prescrizione. Stati Uniti, Trump assolto, si autocelebra in un discorso alla nazione. Nancy Pelosi l'accusa, ha stracciato la Costituzione americana. Lutto nel mondo del cinema, è morto a 103 anni Kirk Douglas, l'ultimo vero divo di Hollywood. Sanremo da record 9,7 milioni e il 53,3% per la seconda serata, media più alta dal 1995. Gabbani intanto domina la classifica, questa sera le cover. Partiamo quindi dalla tragedia ferroviaria avvenuta oggi a Lodi, vicino Lodi. Forse un errore umano dietro il deragliamento del Frecciarossa. Questa è l'ipotesi dell'inchiesta della Procura per disastro ferroviario, omicidio colposo e lesioni colpose plurime. Sono le 5.34 quando nei pressi di Ospedaletto Lodigiano, in corrispondenza di uno scambio, la motrice del treno Frecciarossa 9595 diretto a Salerno esce dai binari. Si stacca, così prevede il sistema di sicurezza, urta una palazzina di servizio e termina la sua corsa. Il resto del convoglio prosegue per un altro centinaio di metri, la prima carrozza si ribalta, le altre restano in piedi, intatte. Il treno stava viaggiando a 290 km orari. Per i due macchinisti Giuseppe Cicciu, 51 anni di Reggio Calabria, e Mario Di Cuonzo, 59 di Capua, provincia di Caserta, non c'è nulla da fare. Vengono sbalzati a 500 metri di distanza. All'arrivo dei soccorsi, le altre 31 persone a bordo sono tutte già uscite dalle carrozze. Nessuna in gravi condizioni, il capo dei Vigili del Fuoco di Lodi, Giuseppe Di Maria. Sono stati tranquillizzati i feriti e poi sono arrivati il personale delle pubbliche assistenze che le ha prese in carico. Poteva essere una carneficina, commenta il prefetto di Lodi, Marcello Cardona. Ci sono state delle condizioni, non voglio definirle favorevoli, però nella prima vettura c'era solo un passeggero, nella seconda ce n'erano due e nella terza ce n'era una. La notte prima, conferma il governatore della Lombardia Attilio Fontana, su quello scambio era stato effettuato un intervento di manutenzione. L'unico dubbio che c'è è capire se esiste un collegamento o meno fra i lavori che si stavano svolgendo e quello che è successo. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E intanto la circolazione ferroviaria è in tilt da questa mattina, con ritardi e cancellazioni non solo per i treni di alta velocità ma anche per intercity regionali interessati alla tratta Milano-Piacenza. Serviranno almeno 2 giorni per tornare alla normalità e per domani si aggiunge lo sciopero proclamato dai sindacati dopo l'incidente. Poi torneremo sulla dinamica e sull'inchiesta che riguarda questo incidente. Coronavirus, sono 565 le vittime nel mondo, tutte in Cina tranne 2. Intanto accertamenti sono in corso su un possibile caso italiano alla Cecchignola. Potrebbe essersi ammalato uno dei 56 italiani rientrati da Wuhan e ora sotto osservazione alla Cecchignola. Le analisi hanno rilevato in mattinata un sospetto di coronavirus e per questo il nostro connazionale, un adulto, è stato trasferito per accertamenti all'ospedale Spallanzani, dove resta in condizioni critiche. La coppia cinese positiva al coronavirus, ricoverata 8 giorni fa. Siamo tutti un po' in ansia ma sereni, sento spesso mio marito, afferma intanto la moglie di Gennaro Arma, il comandante della Diamond Princess. La nave da crociera, dove si sono registrati 20 casi di coronavirus, resta in quarantena nella baia di Yokohama, a largo del Giappone. A bordo sono 35 gli italiani, 25 dei quali membri dell'equipaggio, tra loro al momento nessun caso di infezione. Intanto sono 62.000 i passeggeri monitorati finora su 521 voli internazionali in Italia, lo ha comunicato il premier Conte al termine della riunione sull'emergenza alla protezione civile. E nel giorno della morte del medico che in Cina per primo diede l'allarme sulla diffusione del coronavirus rimanendo inascoltato, il bilancio ufficiale parla ormai di 565 vittime e quasi 28.300 contagi in tutto il mondo. Tra le buone notizie, le persone guarite, che sono più di 1.500, e la scoperta messa a punto ad Hong Kong di un test che consente la diagnosi in soli 40 minuti. Per il vaccino ci vorrà tempo, ha avvertito il direttore generale dell'OMS, che la prossima settimana riunirà gli esperti mondiali in un vertice a Ginevra. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E per trovare un vaccino e sviluppare terapie contro il coronavirus servirà del tempo, l'ha detto il direttore generale dell'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus durante il briefing quotidiano di Ginevra. Laboratori accademici, multinazionali farmaceutiche, piccole aziende, biotech sono al lavoro. Sono ottimista che un vaccino verrà fatto. I tempi in cui verrà fatto dipendono molto anche dalla gravità di come evolverà la situazione del coronavirus, perché se questo diventa pandemico, diventa un rischio mondiale, diventa molto pericoloso, è chiaro che il rapporto tra il beneficio e il rischio cambierà molto e ci sarà più necessità di accelerare e quindi si potranno tagliare ulteriormente i tempi. E i costi per la ricerca e lo sviluppo di un vaccino sono molto alti? Per lo sviluppo di un vaccino i costi stimati medi sono circa di $1 miliardo. È chiaro che $1 miliardo vuol dire fare tutte quelle cose per 15 e 20 anni che usiamo per fare un vaccino normale. Qui i costi saranno più bassi, ma perché si farà molto più veloce, però quando si tratta poi di industrializzarlo, produrlo per tutto il mondo e così via, i costi saranno comunque nelle centinaia di milioni di dollari. Politica italiana, vertice di maggioranza sulla prescrizione in corso a Palazzo Chigi. Dopo il Consiglio dei Ministri resta fermo l'impegno del governo a attuare nella sua massima potenzialità il reddito di cittadinanza al fine di migliorarne la capacità di contrasto alla povertà e di incentivare il reinserimento socio-economico nell'ambito della definizione dell'agenda 2020-2023, ha detto Conte rispondendo al question time al Senato. Il Movimento 5 Stelle, come annunciato ieri da Di Maio, torna in piazza contro i vitalizi. La conferma sul blog è arrivata dal capo politico reggente Crimi. L'appuntamento è sabato 15 febbraio alle 14 a Piazza San Silvestro a Roma. L'appuntamento invece per lo spazio dedicato alla politica è qui tra poco. Ponte di Genova, Benetton, la famiglia Benetton interrompe il rapporto con Oliviero Toscani dopo le affermazioni del creativo sul crollo del Ponte Morandi. Benetton Group, si legge in una nota, con il suo presidente Luciano Benetton, nel dissociarsi nel modo più assoluto dalle affermazioni di Oliviero Toscani a proposito del crollo del Ponte Morandi, prende atto dell'impossibilità di continuare il rapporto di collaborazione col direttore creativo. Estero, il discorso di Trump alla nazione è stata una vergogna, una grande ingiustizia per 3 anni portata avanti dalla gente bugiarda. Non so se un altro presidente sarebbe riuscito a superare questa situazione. Lo ha detto Donald Trump parlando alla nazione in diretta TV alla Casa Bianca dopo la sua assoluzione dalle accuse che lo avevano portato all'impeachment. Poi ci collegheremo direttamente con gli Stati Uniti per altri dettagli. Invece adesso parliamo della situazione in Siria. Si continua a combattere a Idlib, nel nord-ovest della Siria, tanto che il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, è allarmato dai recenti scontri e chiede una rapida de-escalation. Ieri le truppe governative hanno circondato una città chiave lungo l'autostrada per Aleppo, Sarakeb. La città è ora cinta su 3 lati dalle truppe lealiste sostenute da quelle russe che si scontrano contro le forze anti-regime siriano appoggiate dai turchi. Come se non bastasse, questa mattina c'è stato anche un raid israeliano. Si tratta del secondo attacco attribuito a Israele in Siria in meno di un mese. Ma gli scontri nel nord-ovest preoccupano anche per le conseguenze che potrebbero avere per l'Europa. La provincia siriana di Idlib, ultimo territorio ancora sotto il controllo dei ribelli, è abitata da oltre 3 milioni di persone, di cui più della metà già sfollata in altre zone della Siria. Molti di questi siriani sfollati potrebbero scappare in Turchia a nord, dando inizio a un'altra gravissima crisi umanitaria. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E oggi la giornata internazionale contro le mutilazioni genitali femminili. Sono circa 250 milioni le donne che nel mondo sono portatrici di mutilazioni genitali femminili, 3 milioni le bimbe e le ragazze a rischio ogni anno, tra i 4 e i 14 anni, ma talvolta anche più piccole, dati che fanno della pratica molto pericolosa per la salute e per la psiche un problema su cui sollevare l'attenzione, che non riguarda solo l'Africa ma anche l'Indonesia, Medio Oriente, Estremo Oriente, America Latina, in generale le comunità di immigrati da varie aree del mondo in Occidente. Solo in Italia le donne presenti sul territorio che sono state sottoposte durante l'infanzia a una forma di mutilazione genitale, secondo stime sottovalutate, sono tra 61.000 e 81.000, ma potrebbero appunto essere molte di più. E l'ambasciatore Gian Lorenzo Cornado, rappresentante permanente dell'Italia alle Nazioni Unite a Ginevra, ha ribadito oggi all'ONU il tradizionale e forte impegno dell'Italia nella lotta alle mutilazioni genitali femminili. La cronaca non si è fermato neanche, a proposito di violenza contro le donne, non si è fermato neanche davanti al fatto che era incinta, ha continuato a torturarla, seviziarla, maltrattarla, costringerla a prostituirsi. Un abisso senza fine per una 23enne italiana, dal quale è riuscita a uscire grazie alla sua volontà e all'aiuto dei carabinieri della compagnia di Castel Gandolfo. Il suo aguzzino, un 33enne, è stato arrestato e ora si trova nel carcere di Velletri in attesa del processo. 3 sorelle tra i 55 e i 70 anni si sono suicidate tra ieri e oggi a Carmagnola, in provincia di Torino. A scoprirlo sono stati i carabinieri, che hanno trovato una delle vittime impiccata al balcone di casa. In tasca aveva un biglietto di scuse nel quale spiegava di averlo fatto perché le 2 sorelle si erano suicidate poco prima. I militari, accorsi in casa, hanno trovato i cadaveri delle altre 2 donne. Le 3 avevano già tentato di uccidersi il 20 luglio del 2015 in Val d'Aosta. Il meteo, nuova ondata di maltempo sull'Italia, caratterizzata dal vento molto forte. A Cava dei Tirreni, provincia di Salerno, un uomo è morto colpito da un albero abbattuto dalle raffiche. A Fano, Pesaro Urbino, nelle Marche, il camino a legna di un'abitazione ha sprigionato monossido di carbonio, anche in questo caso a causa del vento, intossicando una famiglia di 4 persone. Danneggiata dal vento, una tendopoli realizzata in prossimità del Granghetto, tra San Severo e Rignano Garganico, nel Foggiano. E parliamo di divorzi famosi. Silvio Berlusconi e Veronica Lario hanno raggiunto un accordo, ratificato dal Tribunale di Monza, che mette la parola fine alla battaglia legale sui profili economici del divorzio, chiudendo tutte le pendenze. Berlusconi ha rinunciato a chiedere circa 46 milioni di euro che l'ex moglie gli doveva sulla base della Cassazione, che confermò la revoca dell'assegno di divorzio. La Lario, dal canto suo, ha rinunciato a chiedere 18 milioni. E ora invece parliamo di una grande eccellenza italiana, gli Uffizi. Siti non ufficiali come uffizigallery.org o uffizi.net, ma ce ne sono altre decine che richiamano il nome del celebre museo di Firenze, non potranno più essere usati per ingannare i turisti di mezzo mondo. Si tratta di una vittoria storica contro il bagarinaggio online ottenuta presso la Corte federale dell'Arizona, che dovrebbe ora garantire che l'unico sito autorizzato è uffizi.it. Abbiamo assestato un colpo devastante contro i vampiri della rete, che per anni, come parassiti, hanno illegalmente in malafede sfruttato il nostro patrimonio e la nostra immagine, commenta il direttore degli Uffizi, Eike Schmidt, ricordando che questi siti hanno tratto in inganno visitatori in tutto il mondo. La battaglia legale è stata tra il Museo Fiorentino e la società Boxnick Anstalt, che in Arizona aveva registrato numerosi domini contenenti il nome degli Uffizi. Enrico Pagliarini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Lutto nel mondo del cinema, è morto a 103 anni Kirk Douglas, l'ultimo grande divo di Hollywood. Voce di Arisa da Sanremo, proprio in questo momento sta cantando insieme a Marco Masini la serata delle cover, sta cantando Vacanze Romane, famoso brano di Mattia Bazzar. Di questo parleremo, dei record anche per la seconda serata di ascolti. Gabbani per il momento domina la prima classifica generale dopo l'esibizione di tutti i big, e appunto poi ci collegheremo direttamente con la nostra inviata. Bene, per i vostri messaggi, pagina Facebook di Effetto Notte oppure il 349-238-6666, c'è un ascoltatore che... non so, o improvvisamente è uscito dall'incavo di un albero un po' prima del tempo, diciamo, nonostante l'inverno non sia ancora passato, oppure ieri non ha ascoltato la trasmissione, si è addormentato durante la trasmissione, vuol dire che sono anche soporifera, oppure diciamo che ha bevuto quel bicchiere in più perché dice che io ieri non mi sono neanche degnata di parlare della polemica Toscani-Benetton, quando invece ho fatto anche un commento e diversi ascoltatori hanno apprezzato. A tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. 60 minuti come sempre ricchi ricchi di informazioni, di aggiornamenti in diretta e poi dei vostri commenti e approfondimenti con gli ospiti, che cominceremo tra pochissimo. La sintesi della giornata l'avete appena sentita invece, e poi ci sono i vostri messaggi che stanno arrivando sulla pagina Facebook di Effetto Notte, oppure li potete inviare tramite SMS e WhatsApp al 349 238 6666. Vi ricordo molto velocemente, se non avete acceso puntualmente alle 21, mi raccomando siate puntuali in modo che un giorno non potrete dire io questa non la sapevo, a proposito di notizie importanti, quali sono appunto i fatti in primo piano. Incidente ferroviario con il Frecciarossa che è deragliato vicino Lodi, 2 morti e 31 feriti, ne parleremo tra pochissimo. Coronavirus, sono 565 le vittime del mondo, intanto si stanno facendo accertamenti su un possibile caso italiano fra gli italiani che sono adesso in quarantena alla Cecchignola vicino Roma. I nodi del governo, in corso il vertice di maggioranza centrato soprattutto sulla prescrizione, poi Stati Uniti, il presidente americano Trump, che ieri è stato assolto, ieri in tarda serata, per quanto riguarda l'ora italiana, dall'impeachment. Oggi in un discorso alla nazione si è autocelebrato, mentre Nancy Pelosi, presidente democratica della Camera, l'ha accusato dicendo ha stracciato la Costituzione americana. Lutto nel mondo del cinema, è morto a 103 anni Kirk Douglas, l'ultimo vero divo di Hollywood, e poi Sanremo da record, stasera è invece l'appuntamento con le cover. Il locomotore si è staccato dal resto del convoglio e alla velocità che teneva in quel momento, credo 300 all'ora, è andato a deragliare all'altezza di uno scambio che doveva essere posto in una certa posizione, invece così non era. Avete sentito questo passaggio del procuratore di Lodi in conferenza stampa oggi, mentre appunto ha parlato ai giornalisti di quello, del fatto molto grave che è successo oggi, il deragliamento del treno Frecciarossa, famosissimo treno ad alta velocità, che è un'eccellenza italiana, è entrato ormai nelle vite di tanti di noi. E il treno Milano-Salerno deragliato questa mattina alle 5.34 nel territorio di Ospedaletto Lodigiano, vicino Lodi, proprio alle porte di Milano. Un drammatico incidente che ha causato la morte di due macchinisti, Giuseppe Giuseppe Cicciu, di 51 anni, di Reggio Calabria, e Mario Di Conzo, di 59 anni, di Capua, in provincia di Caserta, e il ferimento di 31 persone a bordo. Per fortuna c'erano solo 28 passeggeri, 5 dipendenti di Trenitalia. Che cosa è successo? Che la motrice del convoglio, sviata dai binari a 290 km orari per cause che sono ancora da chiarire, se legate a un malfunzionamento di uno scambio o a un errato segnalamento, è proprio, si dice, che sia letteralmente decollata, si è staccata dal resto del treno, che tra l'altro questo è un sistema di sicurezza per evitare che gli altri vagoni possano seguire la motrice, appunto, in situazioni pericolose, uscendo completamente dalla sede per poi finire rovinosamente prima contro un carrello o qualche mezzo analogo e poi contro una palazzina delle ferrovie. Il resto del convoglio avrebbe anch'esso, naturalmente, a quella velocità proseguito la corsa parallelamente ai binari. Per fortuna però, appunto, seppure fuori dalla sede naturale, insomma, si tratta di feriti per il resto. Questo sviamento del treno sarebbe avvenuto in corrispondenza di uno scambio che proprio la scorsa notte era stato oggetto di manutenzione. Era stato riparato un deviatoio che appunto è un pezzo dello scambio stesso. Il procuratore della Repubblica di Lodi, appunto, avete sentito Domenico Chiaro, esclude che ci sia qualsiasi riferimento a atti volontari, ad attentati, eccetera, e si indaga invece per sull'attività di manutenzione nella zona. Saluto intanto la nostra Raffaella Calandra. Ciao Raffaella. Ciao Roberta. E qui di fronte c'è il nostro collega del Sole 24 Ore, Maurizio Caprino. Ciao Maurizio. Buonasera. Allora, Raffaella, la procura di Lodi sta indagando a carico di ignoti per il momento per omicidio colposo, disastro colposo e lesioni colpose. Sì, questi sono i reati contestati in un fascicolo per ora a carico di ignoti, ma diciamo l'esperienza ci fa immaginare facilmente quali saranno appunto le prossime mosse. Come hai già sintetizzato tu, in questo momento ci si concentra soprattutto su cosa è avvenuto al chilometro 166 di quella rete, laddove tra i binari sono rimasti ora i segni appunto delle lamiere, perché in quel punto c'è stato proprio quei lavori di manutenzione questa notte, che in questo momento sono, diciamo, in qualche modo sotto accusa, perché in questo qualcosa non avrebbe funzionato e quello scambio che è rimasto aperto invece sarebbe dovuto essere chiuso. Che cosa significa? Che in qualche modo in questo sistema, diciamo, per far andare il treno in direzione diritta, ecco, proprio per semplificare e farmi capire, lo scambio doveva essere allineato, in realtà invece era rimasto aperto. Allora, l'ipotesi, come ricordavi, avanzata dalla procura, si sta valutando quella dell'errore umano, però c'è anche una questione di comunicazione interna tra sistemi, cioè da una parte se era stata comunicata l'avvenuta fine di lavori di manutenzione e dall'altra parte il tema della comunicazione appunto del segnale, anche perché sulla rete ferroviaria, questo è un punto da capire, dovrebbe essere in vigore questo sistema appunto d'eccellenza che dovrebbe ridurre al minimo, se non evitare l'errore umano. Però diciamo questo in questo momento è il quadro che si sta delineando. Raffaella, tra l'altro, appunto, in questo momento, come dicevi, andranno avanti le indagini. Si è parlato di 2 giorni per riaprire la linea ferroviaria, almeno 2 giorni. Almeno 2 giorni, in realtà, come già in altre vicende di disastri ferroviari, da quello di Pioltello ad altre, a quello di Andria, anche se si tratta di linee diverse, anche Pioltello era anche alta velocità. Diciamo, bisogna conciliare le esigenze investigative, quindi con il sequestro della zona, e quei binari verranno prelevati per un futuro molto probabile incidente probatorio, cioè per andare a vedere dallo stato di quei binari, cercare di capire che cosa potesse essere successo e quindi le responsabilità. Dall'altra parte si è perfettamente consapevoli che questo sequestro, diciamo, blocca, rallenta quella che è la principale direttrice dell'alta velocità italiana, e gli inquirenti ne sono perfettamente consapevoli, quindi in qualche modo, diciamo, c'è il tentativo di tenere insieme queste due esigenze. Oggi appunto a studiare sulle scatole nere, ma poi anche sulle telecamere, che ogni Freccia Rossa ha la telecamera che riprende appunto il suo percorso, ci sono infatti proprio quelli che sono gli investigatori esperti in disastri ferroviari che avevamo incontrato a Pioltello, che si sono occupati dello scontro incontro ad Andria tra binari, quindi in qualche modo è un percorso complesso, perché sono molto complesse questo tipo di indagini, ma che ha dei passaggi per certi versi già in qualche modo obbligati dal punto di vista tecnico. Grazie Raffaella Calandra. Ciao Raffaella. Ciao Roberta, grazie a te. Invece voglio chiedere al nostro Maurizio Caprino, allora ricordava appunto Raffaella che questo incidente avviene a poco più di 2 anni di distanza dall'incidente ferroviario che è avvenuto a Pioltello, no? Sempre vicino a Milano, sì, alle porte di Milano, in cui morirono 3 donne. L'alta velocità è un'eccellenza italiana, no? Che dicevo ormai fa parte delle vite di tanti di noi, si possono raggiungere tra Milano e Roma, cosa ci sono, 3 ore, con Bologna 1 ora, poi fino a seguire fino a Firenze eccetera, però questo incidente e i vari ritardi che si accumulano da tempo, no, sui Frecciarossa, secondo te in qualche modo sono una spia, una piccola spia, una grande spia che si accende su questioni di manutenzione, di controlli, di sicurezza? Sì, spie ce ne sono tante, devo dire, ne avevamo parlato anche su Sole 24 Ore a fine novembre, in quel caso avevamo puntato il dito per quanto riguarda l'alta velocità, soprattutto su alcuni incendi, problemi di impianti elettrici che insomma non sembravano tenuti in maniera eccellente. Poi c'era un problema anche apparentemente almeno di progettazione, perché era successo invece un principio di incendio su un treno l'estate scorsa. Questo treno era nel tratto appenninico e arrivava a Bologna a Bologna è stato fatto evacuare all'interno della stazione sotterranea con un principio di incendio e questo evidentemente era la procedura, però insomma desta anche qualche perplessità il fatto che una procedura preveda un'evacuazione in situazioni del genere sottoterra. Nel caso invece di stamattina probabilmente appunto come abbiamo sentito è un errore umano, nel senso allora noi ci siamo procurati nel sistema delle ferrovie c'era proprio l'avviso, la nota di fine lavori, fine del cantiere, probabilmente era un cantiere che doveva riprendere, quindi lo scambio è stato lasciato bloccato teoricamente in posizione diritta per consentire ai treni di andare diritto, con l'alimentazione elettrica tolta in modo tale che non potesse muoversi in attesa del completamento evidentemente dei lavori. Cosa è successo? Nei sistemi risultava quindi dritto, quindi normale, e questo ovviamente ha fatto sì probabilmente che il sistema di controllo marcia treno non abbia potuto rilevare anomalie, perché risultava appunto tutto normale. Il problema è che chi probabilmente ha messo questa informazione non era certo, o ha verificato male, che lo scambio fosse nella posizione diritto. Esattamente, esattamente. Quindi questo ovviamente vi dice quanto anche il sistema più avanzato sia da un lato perfettibile ed è proprio perché perfettibile ancora soggetto alla umana diligenza, e questo apre un altro fronte sulla qualificazione degli operai che hanno eseguito questo lavoro. È successo già altre volte, insomma non mi riferisco alle ferrovie, però insomma le qualificazioni. Però è stato accertato che sono operai interni di rete per le ferrovie e non ci sono stati appalti esterni, sì, no? Mi sembra di aver capito. Sì, esattamente, questo lo confermo, però insomma accertamenti ulteriori andranno fatti anche proprio sulle qualifiche, sulle abilitazioni prese singolarmente da queste persone. Tra l'altro va aggiunto, Maurizio, che per fortuna era un treno quasi dell'alba e c'erano soltanto come passeggeri 28 persone, perché immaginiamo che fosse stato pieno, magari di persone anche che camminavano lungo il treno perché andavano a trovare amici, parenti o qualcuno che sistemava le valigie o andava al bagno, chissà cosa, insomma, è stata molta fortuna nella sfortuna, no? Diciamo che ha influito anche il fatto che a febbraio il traffico, le persone si muovono poco, probabilmente anche a parità di orario in piena estate sarebbe stato diverso, e devo dire che questa è una costante che ricorre in alcune tragedie, anche quella del Ponte Morandi, per fortuna era il 14 d'agosto e sono morte soltanto, tra virgolette, soltanto 43 persone, ma gli inquirenti hanno stimato che in un giorno normale avrebbero potuto rimanerci sotto ben 300 persone. 300 persone. 300 vite. Quindi speriamo, insomma, che si faccia chiarezza il prima possibile e che cose del genere, per quanto riguarda l'Italia, ricordato un ponte che crolla, un treno che deraglia, che insomma No, ci sembra fin troppo per adesso. Purtroppo, ma non solo, il nostro è un paese fragile, al di là di queste tragedie, adesso abbiamo infrastrutture che sono oggetto di limitazioni proprio perché si teme che non siano adeguate a svolgere il loro servizio, in particolare questo sta succedendo sulle autostrade, ma probabilmente problemi analoghi si appaleseranno anche sulla rete stradale ordinaria. Il Ministero delle Infrastrutture sta elaborando delle linee guida che probabilmente metteranno in fuori gioco tante strutture, e proprio in questo momento, insomma, al Ministero il problema di coscienza è: ma facciamo proprio queste linee guida e così rischiamo di paralizzare il paese, oppure andiamo avanti così e speriamo nello stellone sostanzialmente? Bella domanda, ci lascia. È il conto di decenni di incuria. Grazie Maurizio Caprino del Sole 24 Ore, lo diciamo molto sconsolatamente. Bene, direi che ci fermiamo per una pausa di riflessione su tutte queste cose che abbiamo detto. Voi continuate con i vostri messaggi, i vostri commenti sulla pagina Facebook di Effetto Notte, che è sempre lì per voi giorno e notte, alla quale potete aderire senza indugio in qualsiasi momento, oppure SMS e WhatsApp li potete inviare al 349-238-6666. Torno ratta come la folgore. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte, ormai lo sapete, siete nel posto giusto, al momento giusto, se volete anche con la giusta conduttrice Roberta Giordano con voi. Proseguiamo allora con gli approfondimenti insieme agli ospiti. Abbiamo parlato della dinamica di questa tragedia ferroviaria del Frecciarossa deragliato e poi dell'inchiesta che è in corso per il momento contro ignoti, ma l'ipotesi è quella di un errore umano, probabilmente di uno scambio. Che era stato questo pezzo di binario, no? Che dà la direzione al treno a un certo punto, incroci tra i binari, che si pensava fosse dritto, invece probabilmente è stato lasciato in un'altra direzione con tutto quello che ne è conseguito. Comunque, insomma, adesso sono gli inquirenti che dovranno fare chiarezza, anche se spiegavamo appunto che la dinamica e le indagini sono molto complesse. Adesso invece ci concentriamo sulla politica italiana, mentre vedo una bella notizia che viene da Sanremo. Il 19 settembre ci sarà a Sanremo un concerto contro la violenza nei confronti delle donne. Sul palco ci saranno Amoroso, Nannini, Emma, Elisa, Pausini, Mannoia e Giorgia. Quindi l'Ariston torna a parlare di violenza contro le donne dopo quel bellissimo intenso monologo di Rura Gebral. Adesso invece ci concentriamo sulla politica italiana. È in corso il Consiglio dei Ministri, non mi pare che sia ancora terminato, sui nodi che ancora agitano la maggioranza di governo, le forze di governo, quindi PD, Movimento 5 Stelle e Italia Viva di Renzi e Liberi Uguali. A partire, quali sono i nodi? A partire dalla prescrizione, cioè la scadenza che un processo dovrebbe avere per non durare all'infinito. Sapete che secondo la legge Bonafede, che è già entrata in vigore, è stata cancellata la prescrizione, cioè un processo deve andare avanti quanto deve andare avanti secondo il Movimento 5 Stelle. Si cerca una mediazione però, perché da più parti si dice che bisogna difendere lo Stato di diritto. A un certo punto bisogna evitare che una persona non abbia mai giustizia o non sappia mai se è innocente o colpevole, possa andare avanti all'infinito. La mediazione sembra molto complessa perché Conte sta cercando di accelerare affinché lo stesso dibattito sulla prescrizione non vada in prescrizione. Ne è vero Betta Fiorito? Ma insomma sì, c'è questo vertice notturno, sai quando i vertici sono notturni. O si vede notturni, che la sera hanno di meglio da fare, che devono come sempre di notte. Insomma, la notte non porta c'è. Consiglio, la notte porta consiglio, ma non mi sembra per il momento. No, che dice, mi sembra che non ci sia l'accordo, anzi Italia Viva poc'anzi ha detto assolutamente che il ministro della giustizia Alfonso Bonafede deve tornare sui suoi passi, perché comunque Italia Viva non retrocede e Bonafede dovrà cedere. Queste sono state le parole prima di entrare nel vertice, quindi diciamo molto pacificanti, non mi sembrano molto pacificanti da parte di Italia Viva. Sì. E quindi che cosa succede? Succede che ci sono vari contrasti. Allora, Matteo Renzi ovviamente è contro lo stop della prescrizione tout court e c'è attesa per questo famoso lodo Conte che sarebbe avere lo stop alla prescrizione dopo il primo grado di giudizio. Quindi dopo la prima sentenza, se si è condannati lì allora se non si è condannati no, però questo ha dei dubbi di incostituzionalità. E poi c'è il PD che chiede di ritornare poi a quello che era la riforma Orlando, perché c'è una nuova proposta di legge che ripristinerebbe poi quello che era la legge Orlando, cioè una prescrizione congelata di un anno e mezzo dopo il primo grado di giudizio e dopo il secondo grado di giudizio, quindi una prescrizione sicuramente allungata, cioè i tempi del processo allungati, una prescrizione con uno stop che però non è definitivo, mentre nel processo Bonafede si deve finire il processo, altrimenti non c'è proprio la prescrizione. Quindi tutto questo è abbastanza aggrovigliato, molto aggrovigliato, perché io dico si finisce col magari anche annoiare le ascoltatrici e gli ascoltatori, ma in realtà è una questione molto importante questa, è solo che bisogna capire se si riesce a trovare un compromesso tra l'effettiva necessità di arrivare a una sentenza da una parte, perché il Movimento 5 Stelle dice se no alcuni furbi o particolarmente ricchi riescono con gli avvocati azzeccagarbugli a continuare a rimandare le udienze e cose varie finché il processo va in prescrizione, cioè scade e non se ne parla più, e dall'altra però fare in modo che insomma non è che una persona debba aspettare una vita intera per sapere se è innocente o se è colpevole. C'era un famoso film degli anni 70, Detenuto in attesa di giudizio. No? Ecco, attenzione a non creare poi dei mostri di persone innocenti che magari stanno attendendo e che senza prescrizione questo processo va avanti tutta la vita. Diciamo che una mediazione è necessaria. Sappiamo però che Italia Viva minaccia pesantemente, perché è chiaro che i numeri senza di loro al Senato non ci sono. E c'è anche un'altra cosa che infastidisce la maggioranza in queste ore, ed è questa manifestazione del Movimento 5 Stelle prevista per il 15 febbraio. Farei risentire ieri Di Maio, che in un video ha appunto detto si stanno accerchiando, vogliono abolire le leggi che noi abbiamo approvato, ma noi non lo permetteremo, andremo in piazza. Sentiamo questo passaggio di Di Maio. Sapevamo e sappiamo che il sistema avrebbe provato e proverà in tutti i modi a cancellare le leggi che abbiamo fatto in un anno e mezzo di governo. Ma quando è così c'è una sola risposta, e quella risposta è il popolo italiano. Questo è un momento del paese in cui stiamo vedendo un comportamento da parte delle forze politiche che è veramente indescrivibile. Abbiamo tagliato i vitalizi e loro se li vogliono riprendere. Abbiamo fatto la legge sulla prescrizione, che è legge dello Stato, e adesso la si sta rimettendo in discussione per provare a cancellarla. Abbiamo fatto il reddito di cittadinanza e c'è chi sta lanciando il referendum sul reddito di cittadinanza per prendersi quei soldi e metterli chissà dove, in quali privilegi da cui li abbiamo tagliati. Non si può governare un paese o stare all'opposizione in un paese pensando a come abolire le leggi del Movimento 5 Stelle. Bisognerebbe pensare al futuro, a quali altre leggi fare. E invece io qui vedo che non si dà respiro neanche di un anno, di sei mesi ad una legge approvata per poi cambiarla di nuovo. E quindi di nuovo chiama alla piazza il popolo il prossimo 15 febbraio. Sentiamo. Quel popolo italiano deve scendere pacificamente in piazza e manifestare pacificamente contro questo osceno atto di restaurazione che inizia con il riprendersi i vitalizi. Ma man mano, vedrete, vorranno cancellare tutte le leggi che abbiamo fatto. Scendere in piazza significa vederci sabato 15 febbraio a Roma. Beh, quello che si era trovato un po', diciamo, incongruente ieri è che questo appello l'avesse fatto Di Maio, che non è più capo politico, perché sappiamo che settimane fa ha dato le dimissioni, e non parlasse invece Vito Crimi, che sarebbe il reggente, no? Crimi però oggi è intervenuto, ha detto: il Movimento 5 Stelle si è battuto come un leone per cancellare i vitalizi, ora qualcuno vuole riprenderseli, non possiamo permetterlo, dobbiamo reagire manifestando pacificamente il nostro dissenso, per questo vi chiediamo di unirvi a noi e di ritrovarci tutti insieme in Piazza Roma sabato 15 febbraio alle ore 14 in Piazza San Silvestro. Sì, allora Vito Crimi anche ha detto che la piazza sarà contro i vitalizi e non contro il governo. E qui andiamo al nodo della questione. che generalmente un partito di governo non può fare due parti in commedia, no? Allora, l'opposizione e la maggioranza, cioè, dice. Il Movimento 5 Stelle governa e andare a fare una manifestazione in piazza, generalmente, a meno che non sia una campagna elettorale per un partito di governo, sembra un ossimoro, no? Cioè, chi manifesta generalmente, sì, generalmente è l'opposizione. Allora, se non è contro il governo, contro chi è questa manifestazione? Perché una manifestazione sì, si fa per sottolineare le proprie battaglie, no? Però il momento che tu hai bisogno non di andare a Palazzo Chigi a sottolinearle, che è la sede deputata per fare queste battaglie, visto che sei al governo, ma vuoi scendere in piazza, quindi è una sorta di protesta, è chiaro che tu stai protestando contro i tuoi stessi alleati di governo. È inutile che ci nascondiamo dietro un dito. Poi mi sembra che quello che avevamo già detto molto spesso, che questo passo indietro di Luigi Di Maio è un passo indietro un pochino falso, in attesa di questi famosi stati generali che non si sa quando si dovevano tenere il Movimento 5 Stelle a marzo, perché poi alla fine c'è un contrasto e magari ci sarà stati generali, chiamiamolo congresso, no? Una prima cosa, però è chiaro che Vito Crimi è reggente, ma di fatto ancora Di Maio comanda, perché è lui che ha fatto l'appello per andare in piazza, è lui quello che poi è il punto di riferimento, e Crimi praticamente non lo sente nessuno, tant'è vero che il giorno dopo ha dovuto rincorrere Di Maio, che aveva lanciato una manifestazione. Sarà una manifestazione di quelle classiche manifestazioni di lotta e di governo, ecco. Allora, c'è vari messaggi di ascoltatori. Francesco dice: i 5 Stelle pretendono di imporre le loro proposte fatte col precedente governo all'attuale diverso governo. Mentre un altro ascoltatore dice: i litigi, più presunti che veri, tra i quattro partiti che sostengono il governo sono quasi ridicoli. Nessuno, né chi governa né chi sta all'opposizione, dice Francesco Barbieri, ha interesse a far cadere il governo. Renzi stesso, che pare tanto contrario alla prescrizione, qualche anno fa voleva fare le stesse cose di buona fede, una farsa nella quale sono tutti protagonisti. Che tristezza, dice questo ascoltatore. Che dici di queste contraddizioni? Ma intanto che sulla prescrizione Italia Viva vuole rimandare tutto di un anno, perché tanto ha capito che più di un anno questo governo potrebbe non durare. E poi non è così, ci sono delle differenze enormi a livello politico all'interno dello stesso governo. Il PD per esempio vuole una revisione dei decreti sicurezza che il Movimento 5 Stelle ha firmato con Salvini. Quindi ha un atteggiamento sicuramente più di sinistra di quello che era il governo giallo-verde. Anche sulla prescrizione il PD sta molto attento su quello che possono poi essere limiti costituzionali. Ricordiamo che una persona è innocente fino al terzo grado di giudizio. Quindi ci sono delle... E poi sappiamo benissimo che il PD comunque è sempre stato un partito vicino alle toghe e fa proprio l'appello che è stato fatto dai magistrati durante l'apertura dell'anno giudiziario proprio sui pericoli di questa riforma Bonafede, però di non paralisi del, non dei processi. Non dell'ANM, perché l'Associazione Nazionale Magistrati in realtà era favorevole a questa legge Bonafede. Sì, sì, vabbè, però durante l'anno giudiziario i magistrati hanno detto che i processi subiranno delle paralisi. Ricordiamo che in Italia c'è l'obbligatorietà dell'azione penale, per cui non è che è come negli Stati Uniti, che un giudice può decidere o non può decidere, no? Se si stabilisce che lì c'è puzza di reato, se bisogna, così vogliamo, bisogna agire. Deve comunque agire. Beh, non è discrezionale. Betta, ti lasciamo la notte che porta consiglio, dice un ascoltatore, consiglio dei ministri, ecco, quindi vediamo se porta, sì, che tipo di consiglio porta. Sì, un consiglio dei ministri che ricordiamo è ancora in corso con degli auspici un po' cupi all'inizio. Cupi. Buon divertimento allora, Betta Fiorito, grazie. Ciao Betta, ciao, viabilità. Ciao. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. They're vicious and mean, vicious. These people are vicious. Nancy Pelosi is a horrible person. Nancy Pelosi is a horrible person, dice Donald Trump, presidente americano, a proposito della presidente della Camera americana, Nancy Pelosi, democratica, perché ha osato ieri stracciare la copia del discorso sullo Stato dell'Unione pronunciato al Parlamento americano per appunto ieri da Trump. Trump che oggi ha parlato dalla Casa Bianca in diretta TV su tutte le principali emittenti, si è rivolto alla nazione il giorno dopo essere stato, diciamo, assolto sul famoso impeachment, sulla messa in stato d'accusa che volevano i democratici nei suoi confronti. E ha ribadito al mondo la sua innocenza, ha ringraziato che lo ha aiutato e che è rimasto con lui, appunto ha detto Nancy Pelosi invece è una persona orribile, lei a sua volta ha detto è lui che ha stracciato la Costituzione. Un po' di chiarezza da Riccardo Barlam in diretta dagli Stati Uniti, caro Riccardo. Buonasera a tutti, ma è curiosissima questa cosa di Trump che ha detto appunto che sono corrotti democratici, che sono cattivi, che sono il male assoluto, che è una persona orribile, la Nancy Pelosi, e in queste ore proprio hanno ricordato, i giornali americani hanno rimesso la stessa conferenza stampa che fece dopo l'impeachment Clinton, per la storia dello scandalo sessuale negli anni 90, e hanno messo a confronto le due conferenze stampa, Trump come ha reagito, appunto avete sentito, e come invece reagì Clinton, che disse qualcosa tipo sono dispiaciuto, chiedo scusa a tutti gli americani per quello che ho fatto, detto, come dire, l'atteggiamento era tutt'altra specie. Trump ha incassato questa assoluzione che era scontata, ma che è una vittoria e che per i prossimi mesi continuerà a usare come una clava nella sua propaganda elettorale, appunto, contro i democratici. L'altra faccenda che sta ingarbugliando la cosa, il gomito dei democratici, è questa storia delle primarie, perché dopo tre giorni dal voto nel primo stato, l'Iowa, sono ancora al 97% ancora hanno chiesto di ricontare le schede. Ma è possibile? Com'è assolutamente questo? Di ricontare, c'è stato qualcosa che è andato storto, insomma, non è andato come doveva, e ovviamente i repubblicani dicono pensate a fidare il paese a questi qua. L'altra cosa che viene fuori in queste ore qui negli Stati Uniti sono due: una è Mitt Romney, che è il repubblicano che ha votato a favore invece dell'impeachment, vero, coraggiosamente, diciamo, sì, l'unico che ha votato contro, prima nella storia, che ha votato contro il suo partito in un procedimento di impeachment, è l'eroe del giorno nelle televisioni, nei talk show americani, e Trump ha detto che deve essere espulso dal partito, e lui ha detto, Romney, quando ha votato, Trump non si può difendere uno che ha tentato di corrompere il leader di un altro paese straniero per cambiare le nostre regole, le nostre elezioni negli Stati Uniti, quindi come dire, si è messo proprio contro un muro. E questo è coraggioso, no? Perché rischia di perdere proprio il suo posto. Coraggioso. Assolutamente, passerà negli indipendenti, probabilmente. Romney era stato candidato per una nomination repubblicana nel 2012. E Trump continua a dire che è un perdente, che fa così perché aveva perso le presidenziali, insomma, è sempre poco lusinghiero nei commenti. L'altra cosa che viene molto fuori in queste ore è questo leader giovane dei democratici, il volto nuovo della nomination che ha vinto, sta per vincere comunque. Buttigieg, chiamatelo come volete. E allora le televisioni mostrano questo video dove c'è una vecchietta che nell'Iowa ha votato per lui, e poi gli dicono, ma lei lo sa che questo signore è sposato con un uomo? E allora lei dice, ma allora ridatemi la scheda. E hanno chiesto a lui nelle interviste. Ma che cosa dice adesso a questa signora che non la vota perché lei ha un matrimonio omosessuale? E lui veramente in modo molto chiaro, diretto, pulito, le dice: io le dico che se anche non mi vota, io, se dovessi andare alla Casa Bianca, sarei anche il suo presidente. Ogni mattina mi alzerei e cercherei di essere presidente. Ottima risposta. Poi deciderà lei o gli altri americani se votarlo, ma avremo tempo fino a novembre per le presidenziali. Grazie Riccardo Barlam dagli Stati Uniti. Ciao Riccardo. Ma che cos'è se per gli eroni il volo è sempre libertà? Perché per noi invece c'è qualcosa dentro che non... Dicevo ieri, nostalgia canaglia, questo festival di Sanremo che macina record una dopo l'altra, la prima serata, seconda serata, ascolti che non c'erano dal 1995, però Marta Cagnola, nostra inviata a Sanremo, ciao Marta. Eccoci qua. La prima sera standing ovation per Albano e Romina, e poi ieri sera spettacolo pazzesco con i ricchi e poveri riuniti dopo tanti anni in quattro. Non ho mai visto l'Ariston così in festa, gente in piedi che batteva le mani, che cantava, che ballava. Com'è possibile che bisogna andare a fare questi revival per vivacizzare l'Ariston, Marta? No, secondo me non era necessario per vivacizzare l'Ariston, però questi revival hanno non solo un effetto nostalgia per la musica, ma anche un effetto nostalgia proprio per noi stessi, perché giustamente, come hanno detto i ricchi e poveri, loro hanno questa percezione, no? Vengono considerati come dei parenti ormai dal loro pubblico, quindi è un po' come vedere, ritrovarsi in famiglia, sì, persone che abbiamo visto nei nostri televisori, che abbiamo ascoltato ed abbiamo Marta visto, però adesso non vorrei che tu fossi un po' distratta da Ronaldo che ho visto lì tra il pubblico. Parlaci invece delle cover stasera, la serata delle cover. Allora, per ora sta procedendo in maniera estremamente spedita, perché il finale è previsto attorno alle 2 quindi ancora più tardi. Peraltro ci sono 24 cover più gli ospiti, e l'intervento di Roberto Benigni da Scaletta dovrebbe durare 40 minuti. Quindi, che deve fare in 40 minuti? Un film, farà un film lì in diretta. Nessuno sa cosa farà, perché ovviamente, come puoi immaginare, Benigni può mantenere il più stretto riservo. Però c'è stata anche una sorpresa molto bella: sono riusciti a mantenere il segreto per una volta, non è filtrata la notizia. Si sono presentate sul palco 7 cantanti, da Gianna Lannini a Fiorella Mannoia, Elisa, Giorgia. Insomma, ricordate Amiche per l'Abruzzo. In più ci sono anche Emma Marrone e Alessandra Amoroso, che all'epoca erano ancora lontane dal successo. Queste donne canteranno tutte insieme in un grande concerto, Una Nessuna 100.000, il 19 settembre alla da Campoboro, per raccogliere fondi per i centri antiviolenza sulle donne. E il segreto era stato veramente custodito molto molto bene, nessuno si aspettava l'ingresso questa bella sorpresa di queste 7 prime donne. Sì. Bene, la serata è iniziata bene per chiudere, Marta? La serata è iniziata con dei duetti così così, ma con un duetto molto bello di Simona Molinari, che ha affiancato Rafael Gualazzi in E se domani. Bene, buon divertimento, a domani allora. Grazie a domani. Marta Cagnola, e io tra l'altro Amiche per l'Abruzzo posso dire c'ero allo stadio di San Siro, è stata una cosa meravigliosa, tutte le donne per l'Abruzzo, le maggiori contanti. Ci sentiamo per aggiornamenti alle 22.